Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Una mattina mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento lì. 25 aprile è una festa, è un momento di gioia, non cadiamo nelle provocazioni, festeggiamo con la brigata ebraica. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Voi dovreste vedere le facce di questi cretini. Le facce dicono tutto. Ah, ieri avevamo Mauro Corona a dire che l'ombroso è l'ombroso. E io sono con Mauro Corona, l'ombroso è l'ombroso. Guardate le facce, le facce. Io ne ho appena pubblicata una di foto sul mio profilo Twitter, Alino Milan. Le facce, anche giovani, ragazze, anche belle ragazze, col dito medio, no? Al passaggio della brigata ebraica. Ma poi questa storia dei fischi, ancora il 25 aprile a fischiare. Per questi proprio la liberazione è arrivata in vano, eh? Bisognerebbe tornare per questi al pre-liberazione. Per questi qui, dai, questi qui li mettiamo al pre-liberazione. Loro li facciamo un fascismo ad hoc, ad personam. Allora, li mettiamo lì. Poi vediamo se fischia. Le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Vediamo ciao, se hanno ancora l'energia per fischiare poi. È troppo questa? È troppo? Ho esagerato? No, no, no, no, dai, non ho esagerato. Questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Allora, buona festa a tutti! Sì, dai, abbiamo iniziato anche oggi così perché lo so che molti di voi dormivano ieri, non fate gli ignorri, non fate gli ignorri. Allora, devo salutare i soliti nostri ascoltatori, il Meratese, Tony da Maddaloni, Monteveglio, Bologna. Oh, si è svegliata anche Copenaghen! Ci salutano da Copenaghen, dove ieri ha nevicato, per la verità ha nevicato anche in Italia, in alcuni posti. E comunque a Copenaghen è un po' più normale, magari state un po' più a nord, e ha nevicato comunque. E allora voglio salutare, come si chiama? Come ti chiami? Come ti chiami la Copenaghen? Che miseria, t'ho perso. T'ho perso nei messaggi. Ah. Seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire. Oh, t'ho perso a Copenaghen. Non stare. Vabbè, insomma, comunque, Copenaghen c'è. Saluto tutti quanti, è il momento in cui... Ah, attenzione, è tornato, oltre al 25 aprile con i fischi, la solita cosa stupida che c'è ogni anno, è tornata anche l'egida dell'ONU. Nessuno sa che minchia voglia dire l'egida dell'ONU. Tu sai cosa vuol dire l'egida dell'ONU? Peter Biscavi fa... Sotto l'egida dell'ONU forse andiamo in Libia. Che vuol dire sotto l'egida dell'ONU? Boh, non lo so. Però è bello dirlo, come divisivo, divisivo. Il 25 aprile è divisivo, ha detto Beppe Sala. Che vuol dire divisivo? Che uno sta di qua e uno sta di là. Per mia figlia saranno le divisioni. È divisivo. È divisiva l'egida dell'ONU. L'egida dell'ONU è in fibrillazione divisiva. In fibrillazione, anche bello. Se, ti piace? Senti che silenzio. Siligardi! Capunizione all'ultimo secondo! Siamo la squadra più forte del mondo, tranquilli. E non la cambio nemmeno per sogno. Anche ieri si è visto comunque il tiki-taka di Brocchi. Il tiki-taka di Brocchi. Ci stiamo imponendo lentamente in tutto il mondo. Con il tiki-taka di Brocchi. Attaccare! Guardo il Milan alla TV. Mica questi squallidi interisti come... Ah sì, ci sono anche sti gobbi. Federico Novella, buongiorno. Insomma, grazie per avermi chiamato proprio oggi, insomma. Sì, va bene. Quanti sono gli scudetti? Anche tu. Quanti sono gli scudetti? Sì, mi sa anche un po' giù di voce per quanto ho festeggiato, sì, vedi? Sì, ma quanti sono questi scudetti adesso? Ma sono già abbastanza, direi. Sono già abbastanza. No, perché c'è questa cosa da... Poi qui non mi metto a fare i conteggi. Bambini dell'asilo, no. Gli juventini, ancora con la maglietta 34 quando gli scudetti sono 32. Bambini dell'asilo, guarda, crescete, bambini. Inutili, un po' come quelle sul 25 aprile, la stessa roba, più o meno. Ecco. Abbastanza. Diciamolo. Bambini dell'asilo non cresciuti, i tifosi della Juve. Vedo che l'hai presa bene. No, allora guarda, ti faccio rispondere da un interista, anche se è un interista così un po' all'acqua di rose. Alessandro Giglioli, buongiorno. Ciao, dell'Espresso. Buongiorno. Bambini. Non è che ti ringrazio di avermi chiamato proprio oggi. Esatto, bambini. Perché bisogna soffrire tutti insieme. Non concordo, è che... che sono già abbastanza. Bambini dell'asilo. No, guarda, fallo tu il conteggio, possiamo anche scalare di uno, anche perché quello scudetto lì che poi ci ha mandato in Serie B è servito, come dire, a darci lo spirito nuovo che ci ha portato alla vittoria di 5 scudetti di fila. Ridicolo. È così. Ieri ricevo una vignetta di Vincino che mi ha detto: mi raccomando, però non dirla prima che venga pubblicata sul Foglio, ma adesso è stata pubblicata, eccolo qua, la Liberazione. Quando ci libereremo della Juve? Questo è la Liberazione. Vincino. C'è un po' più da aspettare, secondo me. Da Vincino, punto di vista. Il nostro amico Vincino la vede così. Va bene, siamo con Alessandro Giglioli dell'Espresso e Federico Novella, che finalmente, dopo il suo lunghissimo ponte, è pronto. Ma quale lunghissimo ponte? Un ponticello, un giorno fa. È pronto anche oggi alle 9 a fare. È una questione di diritti umani proprio. Cioè, l'egida dell'ONU mi ha garantito questo esatto, ponte. Capisci? Tu, Giglioli, hai capito bene cosa sia l'egida dell'ONU? Ma guarda, sono quelle robe che sento da tanti anni, un po' come i fischi alla Brigata Ebraica e le polemiche. Che sul numero degli scudetti di Juventus stiamo facendo una puntata tutta proiettata su robe che abbiamo già sentito. Sì. I luoghi comuni, gli scudetti della Juventus. Non si trova parcheggio ai Naviglia a Milano. Esatto, non ci sono più le mezze stagioni, c'è l'egida dell'ONU e i fischi al 25 aprile. Tu però, Giglioli, un po' hai fischiato. Allora, apriamo il Parlamento, dai, che non abbiamo aperto il Parlamento. Tu un po' hai fischiato, di la verità. Tu ogni tanto hai fischiato al 25 aprile. No. No, io ho scritto un articolo sul precariato che è un po' l'olio di ricino contemporaneo. Ah, ecco. Quindi ho cercato di occuparmi del presente, con tutto rispetto per le ritualizzazioni del passato, naturalmente, che ci devono stare. Però insomma, io sono un po' non è che amo tantissimo i riti, cioè tanto più quando si trasformano in queste robe qua, che non soltanto sono fischi alla Brigata, ma sono robe che si ripetono. Ho già discusso di sta roba della Brigata Ebraica, ho litigato con un po' di gente l'anno scorso che difendeva i fischiatori, perché è successo già l'anno scorso uguale identico. Poi anche l'anno scorso e anche l'anno prossimo, guarda, faccio questa previsione. Ma dipende anche se si vota o no, perché non è indifferente, perché poi in Italia tutto accade anche all'interno di dinamiche elettorali, purtroppo. Sì. E quindi se vuoi discutiamo della Brigata Ebraica, per carità. Ma no, per carità, diciamo che allora, se posso dire una roba proprio breve, è una retroproiezione. Due robe dico, allora. Uno è una retroproiezione cretina, cioè si va ad accusare gli ebrei che sono lì per parlare della resistenza, per quello che hanno fatto, nell'ambito di polemiche che riguardano cose successe 50, 60, 70 anni dopo, cioè la cosa attuale. La seconda cosa, io lo dico contro Milan, che ha detto una cazzata. Posso? Sì, bene. Perché la Liberazione serve anche per i cretini, invece. Cioè, la Liberazione serve per garantire tutti. Ah, ecco, va bene, allora quindi sì, questa ce l'ho con te, sì, ce l'ho con te. Cioè, la liberazione, questa è una roba che fa arrabbiare anche i miei amici più di fine. La liberazione serve anche per Breivik, per dare a Breivik i diritti che ha, che non c'entra niente poi. Però voglio dire. Quindi niente, state tranquilli. Diritti anche ai cretini. Non vi rimettiamo nel fascismo al persona. All'interno della legge. Va bene, va bene. Per rimettere un po' giusto. Il populismo del mattino presto. Cari cretini, potete stare tranquilli, non anche con le vostre facce, i vostri ditini medi alzati, potete stare sereni, non vi rimetto nel fascismo. Va bene, novella secondo me ogni tanto ha fischiato. No, non so fischiare. Sì, però la cosa triste è che ormai in queste celebrazioni sono diventati palcoscenico per i primi imbecilli che si mettono in testa di fare le loro esibizioni, sì, perché sanno già che troveranno 5 minuti di gloria e il giorno dopo troveranno paginate e paginate di giornali di commentatori che diranno probabilmente: ecco vedi, questa è la nuova generazione di ragazzi che non studiano la storia, ecco vedi, questo è il nuovo populismo ignorante che avanza, pericoloso. No, sono una manica di ignoranti che ha trovato i 5 minuti di celebrità, niente più. Bene. Allora, anche il 25 aprile l'abbiamo sistemato, siamo al 26 di aprile, possiamo rioccuparci l'anno prossimo, Giglioli, non lo so. Torniamo a parlare di Juve, anche da Juve ce ne occuperemo l'anno prossimo, al sesto scudetto consecutivo. E che altro c'è? Ma oh, ragazzi, cioè, non so, non mi appassiona certo lo scontro politica-magistratura, anche questo è una cosa di cui magari parleremo. Sei anche annoiato stamattina. No, vabbè, ma nel senso, ne parleremo, per carità, alle 8:15. Di che parli tu, Federico, invece? Ma guarda, io parlo di quell'argomento che è sempre un po' sotterraneo e poi una volta a settimana esce fuori e ognuno dice la sua, cioè le pensioni. Le pensioni. Oh. Perché da quando Boeri ha detto quella roba lì sulle pensioni dei giovani che avranno l'assegno a 75 anni, ogni settimana si dice tutto e il contrario di tutto sulle pensioni. Tra l'altro sto aspettando la busta arancione, non è ancora anche arrivata. Ogni giorno faccio un presidio davanti alla cassetta della posta, ma non è ancora arrivata. Effettivamente. C'è una cosa bellissima sulla busta arancione, non so se l'avete notata. Cioè? C'è scritto progetta il futuro, io non l'ho ricevuta, l'ho vista L'hai vista passare, l'hai vista come un miraggio, l'hai vista come un miraggio, l'hai vista in un sogno. Su un giornale. C'è scritto sulla busta arancione, arriva sta busta dove ti dice che andrai in pensione forse subito prima di schiattare e comunque rimarrai povero per i mesi successivi dal momento del ritiro al momento del schiattaggio. Dipende che lavoro hai fatto. E che ti dice progetta il futuro. Progetta il futuro. Ma è geniale questa. è geniale. Cioè c'è uno magari che gli arriva una pensione di 400 euro e sulla busta c'è scritto progetta il futuro. Ma è bellissima. I soldi per comprare la corda con cui impiccarti fondamentalmente. Guarda, secondo me nella mia c'è scritto fateli bastare. Esatto. Non li spendere tutti. È bellissima. Com'è d'altronde, Giglioli? Bella questa, l'olio di ricino moderno, il precariato. No, io invece mi sono, appunto, visto che ti hai chiesto davvero di cosa si è occupato di pensieri, mi sono occupato di voucher, del 1.400.000 italiani che campano con i voucher, quello che doveva essere nelle intenzioni quando fecero la legge sui voucher anni fa, prima ancora di Renzi, fecero la legge sui voucher, e doveva essere cosiddetta regolazione del reddito accessorio, del lavoro accessorio, cioè di una roba supplente, lavoretti che fai per arrotondare italiano. Invece per oltre un milione di persone è diventato l'unica forma di reddito. Allora mi sono interessato soprattutto del mescolamento, non tanto dei voucher in sé, quanto del mescolamento dei voucher con tutte le altre forme di lavoretti contemporanei che passano spesso attraverso le piattaforme cosiddette di sharing. Allora tu fai un'ora di voucher, un'ora di guidi con Uber, 2 ore magari... Vai a prendere una, e questa è diventata per sempre di più il modo, altro che pensioni, il nuovo modo per campare per 1 milione di persone. Però guarda, vedi i nostri ascoltatori, no, io ho detto l'egida dell'ONU e la gente va a studiare e dice l'egida è lo scudo di Zeus, e appunto, ho capito, ma che vuol dire l'egida dell'ONU? Cioè vanno i caschi blu con lo scudone di Zeus. Non è che devi stare qui ad approfondire l'egida dell'ONU, però ragazzi dai, voglio un po' chiedervi la questione sempre delle amministrative, perché siamo allo spettacolo con la puntata numero 9432 della telenovela Bertolaso. È straordinario, guarda, guardate, uno veramente mette lì un gettone e ogni giorno c'ha il suo piccolo show, dai. L'ultima è questa di Bertolaso: ero pronto a ritirarmi, ma Forza Italia si è messa di traverso. Ragazzi, è una cosa che dà entusiasmo ai suoi sostenitori, immagino. Ma no, ma è bellissimo. Cioè, Bertolaso, quindi, per la quindicesima volta, dice: sono qui, minchia. Ma infatti, fa sta roba. Si presenterà al comizio di apertura della campagna elettorale legato e imbavagliato. Sì, volevo scappare, ma mi hanno tenuto qui, capisci? È proprio il modo migliore per chiamare frotte di elettori. Proprio si riverseranno dandosi gomitate per andare a votare Bertolaso. Nei grandi manifesti 16x8 non ci sarà lo slogan una Roma nuova, una Roma migliore, ma ci sarà scritto non volevo, punto. Non volevo, esatto. Non volevo. Giglioli, di la verità, è il sindaco migliore che ti potrebbe arrivare. È uno spettacolo straordinario, con tutto rispetto per lui. Perché ha cominciato la campagna elettorale dicendo che Roma era una città terremotata. Sì. E a tutti è venuto in mente la fine che ha fatto fare i terremotati dell'Aquila, quei balconcini che cadono, delle new house. Mm. E è andato avanti con una gaffa via l'altra, non mi vota nemmeno mia moglie ha detto, non mi vota. Punto. Poi ha detto che l'ha convinta. Io vorrei dire sommessamente che tutto questo rientra. Noi abbiamo litigato qua per anni con alcuni interlocutori berlusconiani. Rientra in un contesto che si può riassumere nella seguente frase: Berlusconi non ne azzecca più una. Non ne azzecca più una. Brocchi, però, non aveva. Brocchi non è male. No, guarda che anche nel pallone. Lo so bene, grazie. Lì, naturalmente, poi io parlo di una squadra che va pure uguale. Detto questo, se tu guardi i tre corni del berlusconismo, cioè le scelte che ha fatto in televisione comprando dei diritti TV che hanno fatto un buco pazzesco, sto parlando di quelli della Champions, e poi in politica dove ha sbagliato su tutte le morte, uscire dalla maggioranza di Letta, poi finalmente però nel calcio. C'è anche quello. Vedi che il fenomeno vero che tu, unendo i puntini, vedi è che l'uomo dal tocco magico è diventato quello che non ne azzecca più una. Va bene, Federico Novella, che ne pensi del tuo editore? Adesso un po' più di concorrenza. Poco prima di arrivare a Mediaset, di la tua. Sono le tue ultime parole, vai sereno e tranquillo. No, diciamo che adesso è un po' più di concorrenza. Il tempo è passato. Nel caso di Bertolaso, diciamoci la verità, gli hanno anche un po' teso un mezzo trappolone, non è per difendere lui, però Bertolaso andava bene a tutti all'inizio. A un certo punto hanno cominciato a dire: no, Bertolaso non va più bene, no, Bertolaso è bravo ma non ha i quid, per usare una parola che è già stata usata, e allora l'hanno scaricato. Vero che le prime robe che ha detto sono state ma sì, lui non si è aiutato. Non comunque è vero, cioè voleva l'appoggio di Salvini e ha esordito dicendo: beh, i Rom però non sono poi persone. Se dovessimo scaricare i candidati per le gaffe che prendono, non ci sarebbero più candidati. Salvini ha colto la palla al balzo. C'è da dire che anche la frase sui topi, non so se avete presente, a Roma ci sono 4.000 topi per abitante, che se fai un calcolo sono miliardi di topi a Roma praticamente, sono, quindi anche lì non ha fatto bene i suoi conti, non si è dato una mano. Però certamente questa agonia poteva essere interrotta molto prima, va avanti. Noi invece andiamo al traffico, però ricordate, ripeto, Berlusconi può avere fatto dei passi falsi ultimamente, ma nel calcio la vede sempre lunga. Brocchi e il tiki taka si imporranno in Italia, in Europa, nel mondo, presto. E vai col traffico! Milan, sono all'uscita di Corsico, la tangenziale è completamente vuota, praticamente come il tuo cervello. Forza Gobbi! Alino, quante leggete giornali, fanno rumore a girare pagine, che in teme fe fa un farocco. Ciao Milà, volevo dirti questo. De Vico ha detto la pura e semplice verità, che i politici rubano. Solo che quando qui dice la verità, nel caso dei politici si scandalizzano e gli danno conto, no? Ma la realtà è questa. Oltre ad essere ladri, sono dei delinquenti, perché non ammettono neanche le proprie colpe, capisci? Questo è un paese che gira al contrario della normalità. Ascoltate, ascoltate gente. lo grande giornalista Alessandro Milan che vi racconta tutto, lo bello e lo brutto, lo buono e lo cattivo. Cucì bene che gli manca di imbasticare lo fuoco. Milan, che te pozzino via fuoco, ciao. Grande, grande Angelino, il nostro contadino, è tornato dopo una lunghissima assenza, mentre il fiorentino, io veramente se ne sono perse le tracce. Il fiorentino, dove sei, fiorentino? Bisogna che tu ci dica qualche perla di saggezza, perché qua latitano. Allora, siamo con Alessandro Giglioli dell'Espresso, siamo con Federico Novella, il nostro Fedez, e c'è il nostro Brunetta. Brunetta, vi mancava un po', poteva Brunetta. Poteva forse mancare Brunetta. Il Brunetta del giorno. È andato da David Parenzo e Tommaso Labate sulla 7, in gran spolvero Brunetta. E così si è lanciato in qualche intemerato commento. Eccolo qua. Intanto su Salvini. Salvini ha detto, e ripeto, è un mio amico, la ruspa contro i campi rom. Una stupidaggine. Perché? Perché, uno, i rom sono un'etnia che ha sempre sofferto, da sempre sofferto, è sempre stata violentata dalla storia. Le ricordo, se non lo sa, che nei campi di concentramento c'erano ebrei, omosessuali e rom. Assolutamente. Va bene? Vabbè, è mio amico. Ecco, io mi sono concentrato su questa frase. Non è mio amico, io non lo so. Tutto il resto sta in quel mio amico. Esatto, io non lo so se Salvini. Lo so, ti risulta, Giglioli, tu che sei un cronista sempre informato, che Brunetta sia amico? No, sono un po'. No, in politica non sono sicuro che esista quella categoria lì. Comunque, ecco. Comunque può darsi. Non sono informatissimo sui rapporti personali tra i due. Vabbè. Dubito fortemente che esista quel sentimento. Da quello che ho visto, insomma. E poi vi faccio sentire su Brunetta una polemica con l'Abate. Senti qua. Lei non pensa che quel pezzo di classe dirigente di Forza Italia che sta ribellando a Bertolaso non sia molto arrabbiato con Berlusconi? Chi? Beh, ce ne sono tanti, abbiamo letto i nuovi sui giornali, legge, romani. Legge Repubblica ancora. Ma no, scrive, leggo anche legge Repubblica. Scrive sul Corriere. Legge Lamelli. Legge Lamelli, vabbè, sul Corriere della Sera. Ma questo per arrivare a Renzi. Dai, voglio un giudizio su Renzi, perché ieri Mauro Corona qui ha detto, come dice il mio amico Matvievich, viviamo in una democratura, una democrazia travestita, o meglio un regime travestito da democrazia. È bella forte questa, una democratura. Dai, Giglioli, è il tuo momento, puoi dire. La democratura è in riferimento a che cosa? A Renzi, a Renzi, a Renzi, all'Italia, no, adesso, al governo. La democratura è un problema, mi pare un pochino. Posso 10 secondi di parlare seriamente? Ma la democratura non è un problema di Renzi, la democratura è un problema di tutto l'Occidente nel momento in cui le democrazie sono veramente così indebolite rispetto ai poteri economici. Quando quando tu fai delle elezioni e poi qualunque cosa voti, alla fine si fanno le stesse cose perché sono quelle determinate da dinamiche e da poteri, cioè sia i da poteri forti. No, dinamiche, i mercati, dinamiche, dinamiche. Poteri. Un misto delle due cose. Noi non facciamo i poteri forti col vocione per dire che non no, no, vabbè. Ci sono dei poteri economici e ci sono delle. Figurati, ieri sono andato a vedere le confessioni di Andò che parla di questo. Ieri sono andato al cinema. Allora, è un po' magari oltre alle confessioni ci sono fior di analisi, di studi su di una letteratura politica abbastanza ampia su qual è il problema delle democrazie oggi, che Renzi, come dire, può essere forse una delle forme di declinazione di queste, però abbiamo visto che anche altrove, dove magari la cittadinanza fa delle cose promesse dai politici, poi i politici non è che necessariamente non le fanno perché non le vogliono fare, ma si trovano in condizioni di non poterle fare perché si trovano all'interno di rigidissime strutture e decisioni che sono determinate vuoi da poteri, vuoi da dinamiche. Questa è la democratura. Questa è un problema gigantesco. Sempre meno gente va a votare è perché ha più o meno oscura questa sensazione che qualunque cosa vada a votare serve un tubo. E prova a convincere un ragazzo di 25 anni che non è vero. Che non è vero, non so. Tu, capace. Federico, che dici? Io vado a votare. Brunetta può avere anche ragione, però democratura mi pare di capire una mezza dittatura. Sì, questo ci ha detto Mauro Corona, però ieri. Può